Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Allora, sono le 16.33, buongiorno, Luca Tremolato al microfono, Cristina Tagliabue. Buongiorno. Tutto bene? Sì, sì, abbastanza. Oggi temone, nel senso che questo sarebbe un classico argomento su cui bisognerebbe dedicare una serie di puntate, cioè le relazioni tra le tecnologie e le persone, quanto le nuove generazioni, i nativi digitali, gli adolescenti, insomma, sono condizionati oppure si adattano ai nuovi media, a internet, a Facebook e social network. È un tema enorme, un tema su cui si sta studiando tantissimo, soprattutto nelle università. Oggi ospitiamo una ricerca che ha provato un po' a dire qualcosa sull'argomento. Ma sì, abbiamo con noi in realtà appunto sociologi, un sociologo, anzi una persona che conosco da tanto tempo, perché in realtà lavora tantissimo. Sì, c'è stato, adesso lo dico agli ascoltatori, c'è stato un orrendo caramba, che sorpresa, si conoscevano ai tempi delle... Non lo so, dall'asilo forse. Dall'asilo. Però facciamolo, interrompiamo no. Questo momento emozionato e mandiamo le news. Nuova frontiera della distribuzione, nasce il cinema USB. CineOne e Paramount Pictures distribuiranno in esclusiva per l'Italia due film di grande successo come Star Trek e Transformers Revenge of the Fallen, attraverso una chiavetta USB dalla forma molto particolare. Altri titoli sono a disposizione sul sito www.cine1.it. La visione è gratuita grazie a 3 spot pubblicitari che aprono la visione del film. Un docu-reality sulle donne sovrappeso, in prima visione su Discovery Real Time. È iniziato ieri il nuovo docu-reality Non solo magre, che mette davanti all'obiettivo donne sovrappeso. Contrariamente alle aspettative, le protagoniste non dovranno mettersi a dieta per omologarsi ai modelli dominanti, bensì dovranno imparare a essere sexy, dimenticando il proprio peso. Due donne a puntata verranno giudicate da uomini comuni, fermati per strada, che dovranno rispondere alla semplice domanda: usciresti con questa donna? In onda ogni mercoledì alle 21 su Discovery Real Time, Sky, canale 118. Alice nel Paese delle Meraviglie, il remake di Tim Burton in sala dal 3 marzo. Gli effetti speciali di Disney e le visioni del regista Tim Burton danno vita ad Alice in Wonderland, un classico dell'infanzia riproposto in chiave epica. Il film racconta di un'Alice ormai 19enne che torna nel Paese delle Meraviglie alla ricerca del suo destino e col compito di porre fine al terrorizzante regno della Regina di Cuori, interpretata da Helena Bonham Carter. In occasione del lancio dell'attesissimo film di Tim Burton, gli utenti di MySpace hanno avuto l'opportunità di ascoltare i brani in anteprima per un giorno intero. Tra i brani da ascoltare anche l'inedito Alice, Underground, la colonna sonora che chiude il film, interpretata da Avril Lavigne. Allora, torniamo in studio. La ricerca di cui abbiamo accennato prima si chiama Non Virtual User. Riguarda che cosa? Riguarda i giovani. Di che età? Noi siamo qui con Stefano Laffi, sociologo di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto vediamo di capire qual è la fascia di età. Allora, la fascia di età andava in teoria tra i 15 e i 30 anni, ma in realtà il blocco principale è costituito da 18-24 anni. 18-24 anni, quindi già sono grandini, insomma. Sì, sì. Però sono già nativi digitali, no? Sì. Sì, 18-23, sì. Cioè. Lo sono, però teniamo conto che sono ragazzi che vengono anche da paesi diversi e quindi questa cosa può pesare rispetto a quanto... Perché ricordiamo forte. Il passaggio, cioè il nativo digitale sostanzialmente è colui che... È nato con internet. È nato col mouse in mano, cioè è nato con le tecnologie. Per cui insomma, di solito la letteratura parla dal 77 in poi. Esatto. Ci siamo. Però poi in realtà dipende anche dalle biografie, dalle situazioni, dai contesti di vita. Biografie, fermi tutti, mandiamo la biografia di Laffi. Stefano Laffi è nato a Milano, ha studiato economia e sociologia. Ha lavorato per RAI e Radio Popolare, per il Ministero delle Politiche Giovanili e quello del Welfare, per diverse ASL, università e scuole di formazione professionale. Oggi lavora presso l'Agenzia di Ricerca Sociale Codici, che ha cofondato 4 anni fa, e collabora stabilmente per la rivista Lo Straniero, diretta da Goffredo Fofi. Fra i temi di ricerca, analisi e intervento sociale, ha approfondito in particolare quelli delle culture giovanili, dei consumi e delle dipendenze, dell'innovazione tecnologica e del mutamento sociale. sociale, dei processi di emarginazione e impoverimento. È stato curatore di festival, oltre che giurato in diverse manifestazioni artistiche. Allora, qual è la domanda? Allora, abbiamo spiegato chi sei e chi siamo, poi presentiamo anche Michele Di Paola, che è qui che ci ascolta, anzi lo salutiamo subito. Eccoci qui, ciao a tutti, anche buongiorno. Per te c'hai la scheda, per cui insomma io ti do del tu, perché caramba che sorpresa, lo generalizzo. Sono il carambato, esatto. Esatto. Allora, Stefano Laffi, qual è la domanda da cui siete partiti? E poi tra l'altro questa domanda la giriamo anche agli ascoltatori, perché metti che qualcuno dice no, non è vero, noi non reagiamo così, noi siamo diversi. Partiamo dalla domanda. Sì, la domanda è nata circa 2 anni fa, la domanda è nata al momento in cui Second Life stava esplodendo, tutti si stavano chiedendo chissà cosa succede, in particolare gli adulti, insegnanti, genitori, così stavano, come dire, stavano maturando il dubbio e anzi forse il panico che i ragazzi sarebbero stati rapiti dalle nuove tecnologie. E questa è stata la domanda: sta davvero succedendo questo? E noi per 2 anni abbiamo organizzato attività, li abbiamo pedinati in qualche modo questi 4 gruppi di ragazzi e abbiamo misurato che cosa succedeva nelle loro vite per capire se davvero sta avvenendo questo furto. Ecco Stefano, ma quanti ragazzi ha coinvolto la ricerca e in quanti paesi? I paesi erano 4, sono stati 4 ed erano Italia, Spagna, Belgio, Romania, quindi contesti anche molto di vita molto diversi, nel senso che poi anche i contesti erano legati a una città di mare, a un luogo, come dire, molto più urbano, a comuni molto piccoli, quindi di fatto situazioni diverse. I ragazzi erano gruppi di ragazzi. Michele, quando... nel senso che studiavano insieme, erano in classe insieme, erano amici, erano legati da un, come dire, da un elemento di aggregazione, facevano parte della stessa associazione, era un gruppo di persone che già si frequentavano, perché queste operazioni, diciamo queste azioni, queste attività si realizzano meglio quando si lavora con gruppi. Quanti sono stati alla fine, Michele? Ma diciamo che noi abbiamo puntato a coinvolgere per ognuna delle realtà partecipanti una 15-20 di ragazzi, cercando di mantenerne almeno una parte significativa, la metà, stabili nella durata di tutto il progetto, cioè di 2 anni, proprio perché ci serviva avere un'indicazione precisa del loro livello di soddisfazione nelle cose che gli... Ma quindi cos'è che avveniva nella pratica? Cioè li osservavate davanti al computer? Cioè come li avete monitorati? Poi arriviamo a capire anche che cosa avete capito alla fine. Però cioè com'è che ha funzionato il tutto? Diciamo sì. Che abbiamo proposto a questi gruppi di ragazzi diverse attività in diversi contesti, nei vari paesi che, ricordiamoli, erano la Spagna, la Romania, il Belgio e l'Italia naturalmente. Nei vari momenti in cui tutti i ragazzi si sono incontrati, abbiamo realizzato con loro delle attività sia nel mondo virtuale, per quanto questa parola possa avere un senso, li abbiamo fatti girare a spasso per Second Life, li abbiamo fatto realizzare una radio via web, dei podcast, dei video. Cioè, ma quindi avete insegnato anche a fare queste cose virtuali? Cioè li avete introdotti nel mondo diabolico? Sì. Ecco, però vediamo quali sono stati i podcast, e va bene, la Second Life che però è morto cioè si sono ritrovati da soli nel giro di 6 mesi, no? Allora, quando abbiamo iniziato a lavorare dentro a Second Life era ancora, diciamo, sulla cresta dell'onda, ci siamo subito resi conto che quest'onda stava calando e dunque abbiamo utilizzato lo strumento Second Life come, diciamo, set scenografia per fare altro. Ah, e quindi abbiamo costruito dei video in cui gli avatar che i ragazzi si erano costruiti hanno recitato delle parti e per cui avete fatto i film. Tra l'altro questo, tra l'altro, è una corrente cinematografica, anche lo fanno anche con i videogiochi, è meraviglioso, si vedono i video musicali. Cioè la Tagliabue che mi guarda come se fossi no, perché sono indietro. Invece è bellissimo. Fanno, pensa te, con i giochi di ruolo i video tipo Michael Jackson, le principali. Non la sapevi? No, è presente, ti ho stupito, no? Questa volta. Sì, devo dire, oltre che la foto tua sul sito. Vabbè, di Radio 24. Lasciamo perdere. Andiamo avanti. No, però, ok. Quindi il podcast, la radio via web, i filmati all'interno di Second Life, e però anche una sana dose di realtà reale, quindi arrampicata, torrentismo. Discesa in corda doppia da ponti dell'autostrada. Cioè, per cui voi avete fatto un'operazione che per le mamme è storica, nel senso che di solito si dice sempre: ma mio figlio sta troppo davanti al computer, si rintrona, sbaglia, deve andare fuori a giocare al parchetto con i bambini, dove magari poi viene menato come un tamburo, cioè, per questa visione da piccolo nerd. Però insomma voi avete messo insieme che cosa? L'attività davanti allo schermo e un'attività fisica. Esattamente, sì. L'obiettivo era proprio questo, cioè sperimentare sia nel mondo reale che nel mondo virtuale delle proposte che i ragazzi poi valutassero d'impatto. Quindi attraverso... tu li hai seguiti da osservatori, un po' alla Lost, cioè sei andato lì e seguivi un po' i naufraghi nell'isola. Le domande quali erano che vi siete posti? Le domande erano... sostanzialmente volevamo capire come stavano i ragazzi in corrispondenza delle diverse attività proposte. Avevamo un protocollo di ricerca, quindi diciamo delle schede, dei questionari e poi spiegato in termini cioè più chiari cos'è un protocollo. Un protocollo di ricerca vuol dire che alcune azioni previste a monte che avremmo dovuto fare per rispondere in modo diciamo scientifico alla domanda base, che era quanto i ragazzi sono rapiti da una cosa piuttosto che un'altra. L'idea che avevamo dietro era che in realtà l'ideale sarebbe stato proprio combinare reale e virtuale, ancora tra virgolette, perché dietro questa cosa probabilmente c'era, come dire, una sorta di formula della felicità. Teniamo conto che noi abbiamo preso ragazzi che venivano da paesi diversi, quindi il virtuale ci serviva anche per tenerli in connessione nei momenti in cui non si incontravano. Quindi era una tecnologia funzionale a tenere il gruppo, quindi era quasi una necessità in alcuni contesti. Ma nel senso che loro si davano appuntamento su Second Life o nel caso si comunicavano attraverso mail, chat e altre tecnologie di questo tipo? Diciamo che Spazio Giovani, che è l'organizzazione per cui io lavoro e che ha fatto la regia diciamo di tutto il progetto, ha di tanto in tanto contattato i responsabili dei vari gruppi per organizzare le singole attività che poi sono state fatte dai ragazzi, quindi c'è un lavoro di adulti e di educatori diciamo dietro a questi incontri, però parte di questo lavoro è stato anche stimolare i ragazzi a tenersi in contatto tra di loro, fare attività soprattutto chiaramente utilizzando questi canali che tu dicevi, le chat, le videoconferenze, per poi arrivare nei momenti dell'incontro di persona con del materiale già pronto da usare, okay, per andare avanti. Nova Lab 24. Rieccoci, 16:47. Stiamo cercando di capire cosa succede nel mondo degli adolescenti che si interfacciano con l'internet. Peraltro attraverso anche delle teorie psicologiche complesse. Per esempio leggo, come dire, nel malloppo che ci ha dato Codici e Ricerche, che è la risultante di questa... Sembrano un po' le intercettazioni che stanno emergendo adesso. Sono più di... non sono le 20.000 pagine delle intercettazioni, ma insomma, consistente. È un consistente faldone della teoria del flow di un personaggio degli anni 70, Mihaly Csikszentmihalyi, che già pronunciarlo così è un risultato. Però facciamo cattivi perché... adesso lo spiega in 20 secondi la teoria del... No, sto scherzando. Però insomma, che struttura teorica insomma avete utilizzato per misurare? Per misurare è brutto quando si parla di un adolescente, però insomma per capire un po' quello che passa nella loro testa. Ma la teoria consente in sostanza di capire quali sono le esperienze ottimali nella vita delle persone, e lo fa sostanzialmente andando a capire due variabili: ciò che risulta particolarmente sfidante dal punto di vista delle sollecitazioni per chi vive quel momento, qualunque cosa uno stia facendo, anche fare radio, ma fare una delle attività proposte, da un lato, e dall'altro qual è la sollecitazione delle abilità individuali che quell'attività comporta. La teoria del flow dice che, come dire, uno sta al meglio quando le sfide sono particolarmente significative, quindi quando uno vive un momento forte davvero e quando tutte le sue abilità sono messe in campo. In quel momento c'è effettivamente un'esperienza significativa. Leggo che in realtà sono prese in esame le relazioni sociali, lo sport, l'arte e la scuola. Questi sono gli ambiti principali, diciamo, all'interno dei quali si muove o vi siete mossi. Sono gli ambiti nei quali sono state riclassificate le attività di vita quotidiana dei ragazzi. Cioè i ragazzi hanno nella loro quotidianità descritto che cosa facevano in alcune schede e poi accanto a ciascuna attività hanno identificato qual era questo livello di benessere, diciamo. Hanno fatto anche scrivere dei diari ai ragazzi, no? Leggo qua il diario etnografico Solaro, 24 aprile 2009, a pranzo dialogo con F, oggi è più contenta ai libri, ma anche insomma, cioè, no, rimane questa è la trascrizione della cioè, non utilità di chattare, hanno trascritto, capito? Sì. Cioè li hanno seguiti un lavoro comunque incredibile. Però allora che cosa siamo arrivati a concludere dopo due anni di ricerche? Allora, il lavoro di valutazione, di comprensione di quello che succedeva è stato fatto in tre blocchi: nella vita quotidiana dei ragazzi, indipendentemente da quello che facevamo noi, nei momenti in cui li abbiamo fatti incontrare, nei momenti in cui a distanza lavoravano con le abilità che gli abbiamo formato durante gli incontri. Nella vita quotidiana abbiamo capito una cosa che la teoria aveva già in altri contesti provato a misurare, cioè il fatto che i ragazzi stanno al meglio quando fanno soprattutto attività sportive sportive e attività di relazione, molto poco a scuola, e questo vale in tutti i paesi, che vuol dire che la scuola in questo momento non è una situazione sfidante e non sollecita le abilità. Non è challenging. Non è challenging, esatto, una delle variabili è proprio il challenge. L'altra cosa, nei momenti di incontro che abbiamo organizzato, i ragazzi riuscivano, come dire, a vivere momenti forti, significativi da questo punto di vista, quindi c'erano esperienze ottimali, ma non sempre, non sistematicamente in corrispondenza delle tecnologie. I momenti più forti sono stati quelli cosiddetti reali, quindi l'arrampicata, i momenti di avventura. Leggo caverna. Caverna. Cioè, che sono preoccupata, voglio dire, dove li avete mandati? Con tanto di pipistrelli, ma non veri, non scenografici, sì, mandati in Romania, peraltro, per cui pipistrelli. La terra dei pipistrelli. Cioè, continuo a leggere, cena interculturale, cioè, voglio dire, allora, che lingua si parlava? Questa è già una bella domanda. Diciamo che le attività sono tutte state fatte in inglese, con chiaramente la difficoltà di tutti i ragazzi che insomma non maneggiano l'inglese come loro lingua principale, quindi anche con insomma il divertimento di giocare a parlare un'altra lingua. Oltre al parlare un'altra lingua, una delle cose che normalmente in questi progetti europei, questo non dimentichiamolo, è un progetto che la Commissione europea ha finanziato, insomma, e ha consentito di sviluppare, in tutti questi progetti viene richiesto di inserire un po' di attività che facciano sì che le persone che partecipano si rendano conto di essere tutti cittadini dell'Unione europea. E una maniera che classicamente si usa è quella di banalmente mangiare tutti insieme portando i piatti di casa propria o cucinare insieme. Ma una cosa per capire, per tornare un po' alle conclusioni, cioè la conclusione cosa dicono? Che il contatto umano, io adesso provo a banalizzarla perché abbiamo pochi minuti, cioè che il contatto umano e lo stare all'aria aperta è meglio, è preferibile, è più challenging che comunicare attraverso il computer? No, non necessariamente. Dice questo. No, perché se era così, cioè veniva fuori una discussione infinita, dovevamo andare avanti a litigare. No, infatti non necessariamente. La tecnologia, come dire, il rapporto delle tecnologie genera un'esperienza positiva, ottimale per i ragazzi quanto le attività reali. L'importante è che sia strumentale a un obiettivo che è ben compreso e che piace ai ragazzi. Quando abbiamo proposto Second Life, Second Life è risultata la cosa meno interessante per i ragazzi, ma proprio perché non si capiva bene che cosa potesse servire quella cosa in quel momento a quei ragazzi messi lì insieme. Ecco, una domanda che ci porta un po' più sull'attualità. Secondo voi, Second Life l'abbiamo capito, Facebook e questi nuovi luoghi di aggregazione virtuale che sono sicuramente il fenomeno del momento, ormai anche da numerosi anni, da più di 2 anni. Ma dico la mia, poi Michele dirà la sua. La sensazione è che proprio perché lì ci sono più ragazzi che in qualunque altro luogo, quello sarà necessariamente un luogo dove i ragazzi torneranno, anche perché nello spazio pubblico è sempre più difficile stare, i ragazzi stessi sono spesso... È una questione di numeri, insomma. È una questione di numeri e possibilità di incontro. Ma leggo anche parole come ansia e apatia che sono state misurate, quindi mi domando se c'è più ansia nello scalare una parete oppure entrare in Second Life. Guarda, in realtà c'è più ansia, per fare un po' un paradosso, ma c'è più ansia nella mamma che si sente raccontare questo tipo di attività, oppure vede il figlio che sta davanti al computer e ci passa i pomeriggi e poi viene a chiedere a organizzazioni come Spazio Giovani, come Codici, ma io come devo fare con questo ragazzo, oppure aiuto, paura delle attività che lui fa. Quello che invece è venuto fuori dal nostro lavoro e dalla ricerca che abbiamo fatto è che la misurazione della soddisfazione è il contrario dell'ansia, cioè quando c'è una sfida l'ansia scompare. Ecco, noi abbiamo finito il nostro tempo, io credo che queste poi siano le attività che poi spiegano anche l'impatto delle tecnologie, in questo senso sono super positive. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Cristina Tagliabue, la musichetta sotto che ci stanno sfumando. Alla prossima. Ci sentiamo domani alle 16:30.